tuoi occhi ovunque. Ci sarò con te per sempre, nel dolore anche più grande. Ascolterò discreto, tuo complice segreto. Ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi sarò per sempre, in ogni parte ovunque. Ci sarò con te per sempre, se qualcuno non ti sente. Non importa se poi se poi sarà un destino.